piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Eccomi, sono qui, Magalli, dai, venite. Beh, bisogna parlare del 2019. Vi aspettate cose belle, cose brutte. Brutte mai, Allora, io mi siedo sul trono solo per pochi minuti, poi riscendo. Però voglio parlarvi di un 2019 che sarà ricco di novità. Innanzitutto bisogna ricordare che questo è un anno molto importante per i segni di fuoco. E comunque ci saranno occasioni per tutti, perché sapete, un anno è fatto di 12 mesi e quindi non è che ci saranno dei segni che rimarranno a bocca asciutta, però qualcuno potrà ricevere maggiori conferme, e tra questi il segno zodiacale dell'Ariete. Parto subito con l'Ariete. Perché? Perché non solo siete più forti, ma quest'anno addirittura potrebbe realizzarsi un piccolo grande desiderio. Gesù bambino, l'anno prossimo fammi diventare Paolo Fox. Giuro, se rinasco voglio diventare Paolo Fox, ma mica soltanto lui, anche Branco, anche quelli che hanno occupato i programmi televisivi, anche del servizio pubblico, ripeto, che paghiamo con il canone, da cui dovremmo avere certezze, ma anche illusione leggiadra se vogliamo, ma non Paolo Fox che ci propina ogni anno come fosse una certezza l'oroscopo, segno per segno. Eppure anche quest'anno, come tutti gli anni, nei palinsesti di inizio di anno nuovo, noi abbiamo ancora i campanacci di Babbo Natale e fra un po' la Befana, la televisione ha Paolo Fox che dice quelli che sono i grafici di tutti i segni zodiacali. L'avete visto, ormai è diventata una sorta di esposizione tecnologica di quello che era il vecchio oroscopo. Non ci si mette più la sfera di cristallo, i fondi di caffè e le budella degli animali sventrati, no, oggi è tutto tecnologico, in cui si mostra scientificamente come segno per segno è già possibile prevedere comunque quella che sarà la loro vita. Ma non basta Paolo Fox. Io se rinasco voglio essere anche Nostradamus. Quest'anno le profezie di Nostradamus sono terribili: cambiamenti climatici, inondazioni, terza guerra mondiale. Arrivasse questa terza guerra mondiale, sono 10 anni da quando ho memoria e parlo alla radio, anzi sono 25 anni, forse 35 anni che ogni tanto esce fuori Nostradamus che l'anno la terza guerra mondiale, e giù l'illustrazione con il fungo atomico sul mondo, peste, meteoriti, asteroidi, tutto quanto c'è può essere di più terribile. Quindi da una parte noi ci tiriamo su con l'oroscopo di Paolo Fox, che ha sempre una buona parola per tutti, non è che dice mai per te sarà una sfiga tremenda, tagliati le vene che è meglio, stai male, pestilenze, malattie, cornuto, infame, infelice, non c'avrai una lira, morrai di fame. No, c'è sempre una speranza, c'è sempre questo grafichetto di Paolo Fox che dà un'impennatina verso l'alto, perché in fondo c'è un po' d'amore, c'è un po' di fratellanza, dobbiamo essere tutti contenti. Ora, sotto però ci vorrebbe la scritta presa per il culo, e con questa scritta poi me lo guardo volentieri quando io lo so che è qualcosa che deve farmi bene, come una sniffata di cocaina per dimenticare in quel momento cosa faccio, le mie noie. Però sotto c'è scritto nuoce gravemente alla salute, in questo caso nuoce gravemente al raziocinio. Beh, oggi vorrei, se possibile, fare un punto su tutto questo mondo che aleggia attorno al mondo che razionalmente si muove su, almeno in apparenza, un asse basato sulla pragmatica dimostrazione di quello che si fa. Io mi alzo la mattina e so che se non vado a lavorare non mi entra lo stipendio, io so che se vado e guido contromano probabilmente vado a schiantarmi contro un'altra macchina, tutte cose di cui posso avere ormai verifica. Tutto un altro alone di riempiticcio che va in qualche maniera a saturare quel desiderio dell'umanità di razionale, che bello, fantastico. Su questo si è creata poetica, si è creata arte, si è creato immaginario, si è creata letteratura, sono creati dei telefilm bellissimi su Netflix, quindi è bello che esista il desiderio, l'anelito, l'indagine dell'irrazionale, ma non è bello che questo diventi un mercato. Una delle persone che maggiormente ha dedicato la sua vita a un'operazione simile a quella che sto cercando di arraffazzonare io questa mattina è Massimo Polidoro. Massimo Polidoro, buongiorno. Buongiorno. Massimo Polidoro è un giornalista, uno scrittore, un divulgatore scientifico italiano e segretario nazionale e cofondatore del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. L'abbiamo avuto spesso ospite e iniziamo con lui l'anno nuovo. Non perché noi pretendiamo che sia un anno basato sulla razionalità. Nulla è più lontano dal razionale del mio modo di pensare, ragionare, articolare e affabulare. Ma vogliamo comunque perlomeno mettervi in guarda sul fatto che certe affermazioni, certe linee di produzione di attività lucrosa si fondano sul nostro desiderio comunque di essere illusi. Massimo Polidoro, fra l'altro, oggi ci sorreggerà in una sorta di viaggio nello sconfessamento di questo apparato a fine di lucro dell'irrazionale che ci circonda, ci riporta un suo libro visto, rinnovato, ampliato, accresciuto, dedicato al mago Houdini. Houdini era il mago dell'impossibile, il libro infatti si chiama Houdini, mago dell'impossibile, edizione Codice. Oltre a essere il più grande, il più noto illusionista che ricordi la nostra storia moderna, era in realtà una sorta di antesignano del CICAP. Cioè Houdini faceva sì trucchi, illudeva le persone, si buttava nei fiumi incatenato, usciva privo di catene, faceva degli esperimenti di cui ancora non si sono capiti quali sono i trucchi, però era un grande sconfessatore di quelli che erano i veri illusionisti, cioè gli spiritisti, i maghi, i fattucchieri, quelli che lucravano sul fatto che ancora abbiamo una forte componente superstiziosa. L'hai scelto per questo Polidoro Houdini, che è un po' il tuo nume tutelare? Ma forse è lui che ha scelto me, nel senso che io ricordo di aver visto da bambino questo. Ah, questa è un'affermazione razionale, allora credi nello spiritismo, l'anima di Houdini si è impossessata di te. Aiuto. No, semplicemente mi ha incantato da ragazzino la figura di questo illusionista straordinario che faceva cose incredibili e che poi ha dedicato questa sua capacità di creare illusioni e magie per smascherare chi ne creava altrettante, ma non per divertire come faceva lui, ma per speculare sul bisogno di credere che hanno in tanti. E quindi si è trasformato in una sorta di supereroe, vendicatore della razionalità. Ma lui aveva una tecnica, lui, metti caso che Houdini fosse vissuto ai tempi nostri, lui sarebbe andato in anticipo rispetto alla grande giornata degli oroscopi in televisione, che ne so, su Rai 1, Rai 2, ovunque appaiano. Avrebbe raccontato una sua vita fittizia a Paolo Fox, sarebbe fatto fare un oroscopo e delle previsioni, poi sarebbe andato in diretta, dice: guarda, ti ho preso in giro, non è vero che ho una mamma morente, non è vero che ho sei figli e sono nubile e sono orfano, ecco, una cosa del genere. Oggi chi è che fa delle operazioni simili? Oggi le facciamo noi del CICAP, cioè quello che facciamo senza voler nemmeno arrivare a questi estremi del prendere magari anche in giro la persona che in buona fede pensa di avere facoltà paranormali o di poter prevedere il futuro. Quello che facciamo noi semplicemente è valutare i fatti, no? Tenere da parte queste previsioni che adesso si stanno producendo in abbondanza e tra un anno andare a vedere se si sono verificate come previsto. Allora tu già puoi farmi oggi un punto rispetto al 2018 su quello che era stato previsto e quello che in realtà non è mai accaduto? Eh sì, questo l'abbiamo pubblicato adesso sul nostro sito del CICAP, cicap.org. Il fatto è che si sono fatti sempre più furbi gli astrologi, no? E infatti le profezie che si vediamo in televisione ne sono un esempio, cioè l'astrologo non fa più tante previsioni su quello che può accadere nel mondo della politica, della socialità o eventi storici, ecco, ne prevedono pochi, si limitano a dare grandi visioni molto generiche, banali, che possono andare bene per tutto, ecco. Quindi è sempre più difficile anche per noi trovare delle previsioni da verificare a fine anno, però qualcuna c'è. Ad esempio, questo è l'anno in cui ritorna in grande spolvero Nostradamus. Ci eravamo dimenticati, negli ultimi 2 o 3 anni non se ne parlava tanto, qualche catastrofe era stata a posteriori attribuita a qualche profezia di Nostradamus, ma quest'anno sembra che vada deciso. Se fra un anno non c'è stata la terza guerra mondiale, cambiamenti climatici, le inondazioni, che già ci sono state a inizio d'anno, c'è stato qualche tsunami in qualche luogo del mondo, sarà difficile dire che ci aveva preso. Beh, insomma, Nostradamus torna di moda, come dire, periodicamente, nel senso che le sue profezie sono delle cose talmente vaghe dove ognuno può leggerci quello che vuole, sempre a posteriori, e come guardare le macchie di Rorschach, dopo un po' uno inizia a vedere quello che gli sembra più verosimile. Non c'è una data, non c'è un riferimento, non c'è un nome preciso che si possa verificare. Per questo la stessa identica profezia è stata usata nel corso degli anni per prevedere la morte di Enrico VIII, piuttosto che l'invasione nazista o lo sbarco sulla Luna, la stessa identica. Diciamo che a posteriori è abbastanza facile, dice, te lo dico, se sommi la data di nascita del tuo gatto più il numero dei topi che ha mangiato nella sua vita, più le dita delle mani di uno che fa il falegname, e viene fuori la data, e quindi ce l'ha preso Nostradamus. È facile a posteriori. Funziona così, ma sono come dire, rilevazioni, pensieri e ragionamenti che la persona comune non fa. Si rimane così stupita dal fatto che esistano profezie di questo tipo, che un uomo vissuto 500 anni fa possa aver visto il futuro, e più di tante domande non si fa, ecco. Beh, adesso c'è anche una famosa maga dei paesi balcanici, russa, non mi ricordo bene, che ha visto anche lei delle cose terrificanti. Intanto viene fuori anche lei, che ti giuro, c'è da grattarsi tanto a vedere la foto. Proprio, sì, sembra anche esattamente. Baba Vanga. Allora, fermati un attimo. Intanto do il numero 800240024, anche per quest'anno è lo stesso numero. Quanti di voi sono rimasti delusi rispetto a una previsione, rispetto a una profezia, rispetto a un sentimento che vi era stato annunciato, e poi hanno capito che in realtà la vita era tutt'altra cosa? Quanti di voi ancora ci credono? Quanti di voi vanno dalla maga, dalla strega, dall'oroscopatore, dall'oroscopatrice, ma con scopo di avere conforto rispetto al futuro? Quanti si fanno fare i tarocchi, quanti dicono ma non sarà, ma ci credo? 800240024, andiamo avanti, perché mi interessava che stamattina capire anche qualcosa di più sul personaggio di Houdini. 24 marzo 1874 nasce a Budapest Harry Houdini, pseudonimo di Erich Weiss. Più famoso mago del XX secolo. La sua specialità sono le fughe. È in grado di liberarsi dalla morsa di catene e lucchetti anche se immerso in barili pieni di acqua. Oggi parliamo con Massimo Polidoro, che è il segretario nazionale del CICAP, che è il comitato che controlla tutte le affermazioni sul paranormale. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di darci qualche segnale di loro particolari delusioni. Io non voglio avere pregiudizio di una profezia che si è avverata, che non significa che tutte le profezie siano destinate ad avverarsi, qualcosa di paranormale che ha inciso fortemente nella vostra vita. Ho sentito l'introduzione su questa vita di Houdini. Houdini era un personaggio molto singolare, innanzitutto il mago più importante della modernità. Era un immigrato, la famiglia era una famiglia, mi sembra, ebraica, di origine austro-ungarica, che era emigrata negli Stati Uniti. Il padre faceva il rabbino, Polidoro. Esatto, arrivano negli Stati Uniti, il padre, diciamo, non riesce molto a integrarsi, anche perché non parla l'inglese, e quindi fanno molta fatica. Lo stesso Harry, da bambino, che si trova a dover lavoricchiare, addirittura dover chiedere a volte l'elemosina in strada, riesce comunque a coltivare un sogno, che è quello di diventare un artista del varietà, in particolare un mago, perché lui amava la magia, l'illusionismo, e sognava un giorno di diventare così, e ha avuto la tenacia di insistere. Ecco, lui però non ha mai millantato doti paranormali. Addirittura aveva capito che per lui è anche meglio farsi vedere quando svolgeva l'operazione di liberarsi dalle catene o dalle camicie di forza. Cioè, la sua fatica nel vincere il vincolo della materia faccia parte dello spettacolo stesso. Sì, questa è una grande trovata che lo ha reso in qualche modo una figura davvero memorabile. Cioè quella di non di nascondere il trucco, ma addirittura di far vedere come poteva riuscirci, ma in una maniera straordinaria, appeso per i piedi a testa in giù da un grattacielo, chiuso dentro una camicia di forza, non si nascondeva, anzi era alla vista di tutti, e riusciva a liberarsi. E infatti riusciva a raccogliere decine di migliaia di persone nelle strade che andavano a guardarlo. Ci sono questi filmati straordinari, no? Vediamo le strade invase dalla gente perché guardava Houdini col naso all'insù, e poi la sera naturalmente riempiva i teatri dove lui si esibiva a pagamento. Aveva anche una particolarità, si autoslogava le spalle per uscirsi a liberare dalle catene, dalle camicie di forza. Ma questa è una di quelle voci che... O una leggenda anche questa. Sì. No, non c'è prova su questo, non c'è nessuna prova. Su questo in particolare no, lui aveva una conoscenza approfondita dei lucchetti, dei meccanismi, delle serrature, le comprava ovunque andasse, in qualunque parte del mondo, le studiava, le apriva con qualunque cosa, era una cosa fenomenale. E poi aveva sviluppato, se vogliamo, una capacità di sopportazione un po' più alta del normale, riusciva a stare nell'acqua ghiacciata, riusciva a restare sott'acqua per alcuni minuti, quindi sicuramente aveva, no, sviluppato delle capacità alla portata di chi le allena, ma sicuramente non comune. Quindi il suo era diciamo un allenamento tecnico molto molto specifico nel sapere forzare le serrature, le chiavi, liberarsi alle catene. E com'è nata in lui invece l'idea di sconfessare comunque gli aspetti paranormali, gli spiritisti? Li vedeva come dei concorrenti rispetto alle sue piazze gremite, o proprio aveva un sacro fuoco di vittoria della razionalità sulla superstizione? Ma diciamo che è un po' nata in seguito a una vicenda personale, nel senso che lui aveva perso la madre, a cui era molto affezionato, e un suo carissimo amico, Sir Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes, che era a sua volta un grande spiritista, lui credeva assolutamente in tutto quello che era il mondo. Che era convinto che Houdini fosse un mago in realtà. Era esattamente convinto che Houdini avesse delle facoltà paranormali che gli permettevano di liberarsi, smaterializzava il corpo, secondo Conan Doyle. E però suggerisce a Houdini di andare a trovare quelli che lui considera i medium più straordinari esistenti al mondo per poter parlare ancora con sua madre. E solo che Houdini ogni volta che va, lui partecipa alle sedute spiritiche, cerca di essere il più possibile attento, concentrato e disposto a credere, ma si accorge che questi mettono in scena dei trucchi. Lo prendono in giro, come accade spesso nelle attività medianiche. Il credente che va a queste sedute non è attento come Houdini, non conosce i trucchi, e lui invece li scopre e quindi decide a un certo punto di scatenare una... Allora, ci fermiamo un istante e devo dare la linea a Massimo Polidoro. 800 24 00 24, anche quest'ultima appendice, nessuno aveva mai illuso di poter parlare con qualcuno della rassegna dei vostri morti. Avete mai trovato conforto nella voce di uno scomparso, nella scrittura automatica, nel tavolino che balla, nel bicchierino con le lettere? Insomma, qualcuno va preso in giro e oggi potete raccontarlo. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Zero zero ventiquattro. Stiamo parlando con Massimo Polidoro, che ha scritto un libro sul grande Houdini, mago dell'impossibile, editrice Codice, un librone poderoso, racconta tutta la storia di questo personaggio fantastico che è diventato noto, notissimo, è l'illusionista per eccellenza, che però aveva una sua predilezione nello sconfessare le prese in giro paranormali. Perché? Perché, come ci ha spiegato Polidoro, qualcuno un giorno provò a farlo parlare con la madre morta e si rese conto quanto dietro tutto questo ci fosse una mistificazione. Sappiamo oggi quanto invece è ancora poderoso il grande apparato di coloro che danno voce ai morti, danno illusione che le persone morte possano avere un canale di contatto con i vivi, che io sarei il primo a crederci se avessi dimostrazione scientifica che esiste questa sorta di stargate fra il mondo dei trapassati e il mondo dei vivi. Ma siccome non c'è questo, affido questo alla facilità di credere quello in cui vogliamo noi credere. E sentiamo Mauro. Mauro, buongiorno. Complimenti per la trasmissione, per intanto. Ho voluto intervenire perché mi è capitata una vicenda umana che ha dell'incredibile, nel senso che io mi sono separato e ho avuto processi a seguito di una lettura di carte che la mia ex moglie, dopo 10 anni di matrimonio, volle farsi fare. Ma era abituale cliente di cartomanti? Una volta nella vita, ma vediamo un po' che dicono le carte. No, purtroppo questa Madonna professa come una sorta di religione, tra la religione cattolica ortodossa, cioè chi è militante della religione cattolica e chi si fa i tarocchi, per me nulla, non c'è nessuna differenza, perché comunque si crede in qualcosa di diverso da quello che è oggi. Vabbè, un atto di fede è una scelta, sì, ma una scelta libera, spontanea, uno non è obbligato. Crede nelle carte, dire che esiste un nesso che lega il nostro. La fede dice: tu devi aver fede, quando muori vai in paradiso, all'inferno, in purgatorio, se sei buono. Perlomeno fa praticare le persone quelle che sono azioni non detestabili. La cartomante è diverso, comunque, dice: io leggo dove l'uomo è impossibile che legga con i suoi mezzi. Ma assurdo, cioè io dopo 10 anni di matrimonio mi sono trovato questa cartomante che affermava che io dei 10 anni prima ero stato a letto con la migliore amica della mia ex moglie, e questo mi ha procurato processi, denunce, l'ira di Dio. No, scusi, ma quale tribunale prende come accettabile un'accusa fatta appunto sulla base di una cartomante? Appunto per questo la cartomante è rimasta fuori. Poi tutto il resto, perché io avevo una prova che era oggettiva, cioè il diario di questa donna. Ma l'inzuppo c'era stato veramente, tanto ormai sono passati 10 anni. Mi è dispiaciuto non è che non ci sia stato. Tanto valeva. Però il problema qual era? Che quella prova che io avevo, che era una prova documentale, non è stata presa in considerazione la prova documentale? Cioè il diario dove questa donna aveva scritto che dopo essere stata a consulto con una cartochiromante, la stessa gli aveva detto che io 10 anni prima, e per questo motivo si sentiva delusa e si sarebbe vendicata e mi avrebbe fatto del Scusi, male. Ma la sua ex moglie per una lettura di carte mette in crisi un matrimonio di 10 anni? Assolutamente, purtroppo sì, assolutamente vero, sì. Scusi, era fermamente convinta che lei avesse avuto un rapporto con la sua amica? No, era fermamente convinta delle parole della cartochiromante, questo è il problema. Solo una lettura di carte ha messo in crisi il suo matrimonio? Sì. Era su basi piuttosto fragili, se ne faccia una ragione, io penso sia stato un pretesto. Io penso che ci sia stata una forza invece di convincimento fortissima da parte di questa. E che gliene veniva la chiromante? Ma che gliene è venuto la chiromante? Di vantaggio? Ma la chiromante, le spiego subito, a parte i 50 euro di incasso. Vabbè, per 50 euro, poca cosa. No? Che prendeva ogni tanto a nero, peraltro. Però oltre a quello aveva una simpatia morbosa nei confronti della mia ex moglie. Era innamorata, un losco amore proibito. Sì, è chiaro, perciò faceva il tifo contro di me e quindi ha rovinato una famiglia. Ma tutto questo, le ripeto... Ma alla fine sono fidanzate sua moglie e la chiromante? No, assolutamente, non si parlano più. La chiromante poi è venuta a testimoniare dicendo che io l'avevo presa pure a schiaffi. Pensi un po'. Vabbè, io non venivo... Purtroppo ha pestato una cosa poco simpatica. Mi dispiace per lei, però alla base di tutto c'è quello. Lei non ha mai provato, non è mai riuscita a convincere sua moglie che poteva mandargli un altro mago che dice al contrario, visto che ci crede così tanto. Ma le dico adesso, con i fatti veri, mia moglie si è convinta, di quella mia ex moglie, perché io non torno più indietro, si è convinta della coglionata che ha fatto, però ovviamente il danno è fatto. E quindi ormai se ne sarà trovata un'altra, spero per lei, non ci penso. Ma io sì, senza problemi. il problema non è questo, mi dispiace solamente che una famiglia si sia sgretolata per delle credulerie. La chiromante si è agganciata su qualcosa che era un desiderio recondito di sua moglie. Sua moglie voleva la prova di un tradimento. Assolutamente, credo a questo. Avrà una vita senz'altro migliore senza la moglie che si affida alle chiromanti. Romano, buongiorno. Buongiorno, piacere di parlare con lei. Sì. Io seguo la trasmissione da molto tempo. Sì. Allora, lei ha detto delle cose sulle carte, sulla lettura dei tarocchi, che non corrispondono alle mie esperienze. Certo, siamo qui per sentirle le sue esperienze. Io ho avuto varie letture di tarocchi, alcune volte le ho cercate, altre volte sono capitate per caso, e tutto ciò che mi è stato predetto dalle carte, sia pure con modalità forse diverse da quelle con cui... È accaduto. Ecco, però è accaduto tutto. Mi faccio un esempio di episodio eclatante. O meglio, sta accadendo, perché io ho 72 anni, fino ad adesso va bene, sta ancora accadendo. Tipo le hanno detto, lei avrà qualche acciacco, le farà un po' male la schiena, camminerà un pochino curvo, il pisello non è più quello di una volta, tutte queste cose, non è che ci vuole i tarocchi per prevederlo quando uno c'ha 72 anni. Hanno predetto che mi sarei unito con una donna, che mi sarei separato, divorziato, che... Cosa che accade nella maggior parte dei casi delle coppie, naturalmente. Porto. Che poi ne avrei avuta un'altra di cui mi sarei innamorato e sarebbe finita pure con questa, sì. E poi che avrei subito delle gravi azioni criminali. E cosa le è accaduto? E adesso io diciamo sarebbe un romanzo da dire. Sì, ma solo in sintesi, l'hanno rapinata, l'hanno... Mi hanno derubato di 3 brevetti industriali di alto valore finanziario. Ma lei aveva accennato a questa cartomante che lo scopo della sua vita era brevettare questi brevetti? No, perché quando mi è stato detto tutto questo, non mi hanno parlato di brevetti, mi hanno parlato di guerra, di un attacco molto forte. Abbiamo capito, esistono delle forze occulte che attaccano spesso l'umanità sotto forma di esce chimiche, di rettiliani, di varie forme di attacco. Giustamente lei ne è stato contaminato. Massimo Polidoro, ti ho dato una sventagliata di prime telefonate, aggiungi qualcosa dalla tua esperienza e corrobora quello che abbiamo già detto. Sono due esempi antitetici, uno rovinato da una cartomante, un altro che aveva tutta la predisposizione nel credere che in realtà il suo destino era in quelle carte. Sì, sono due esempi di quello che capita in questo mondo, cioè tante volte l'intervento di questi personaggi in realtà non fa che probabilmente amplificare, no? Quelli che sono evidentemente problemi di altro tipo, oppure possono distogliere da qualcosa che potrebbe aiutare. Ci sono come quelli che per esempio vanno dai guaritori anziché curarsi con medicine verificate e accertate, e poi ovviamente le conseguenze sono drammatiche. E poi chi invece va dal mago, va dal cartomante, ci crede e si convince che abbia previsto e predetto il futuro o fatti molto precisi, e quello che ascolta sono molto spesso, anzi sempre, quello che noi vediamo sempre, sono previsioni molto generiche, molto ambigue, no? Le faranno una guerra, capisci che può essere davvero interpretato in qualunque modo. Anche perché nell'arco di 10 anni sfido a trovare un essere umano che non subisce un torto, una vessazione, una guerra, qualcosa che reputa un torto da parte del resto dell'umanità di qualunque tipo. Esattamente, poi l'altro elemento è che non ci sono limiti temporali, non è che dici dopo domani succederà questo, succederà. Quando succederà, addirittura 10 anni, capisci che i tempi sono, può succedere di tutto e qualunque cosa può essere prevista. Senti, qual è invece la tecnica, diciamo, per riuscire a agganciare la persona? Perché molte persone spesso mi dicono, anche persone con livelli culturali elevati, sì, professionisti, cioè, mi ha detto della mia vita proprio le cose che sono successe, non gliele avevo dette io. Invece com'è il sistema, l'avrei capito, di captazione di informazioni per sapere che Polidoro mi dica a me esattamente cos'è stata la sua vita e poi gliela faccio, man mano gliela propino, gliela centellino come se fosse una mia scoperta? Sì, è esattamente quello, capire intanto cosa vuol sentirsi dire la persona che va dal mago, dall'astrologo o quant'altro. Una volta che si capisce qual è il problema, e alla fine sono di 3 tipi, no? Salute, amore, soldi, lavoro. Era chiaro che questa donna non cercava altro che la prova del tradimento del marito perché non ne poteva più, evidentemente. Probabilmente sì. Una volta capito quello, ecco che è sufficiente dare il là, una parola, una frase che il cliente interpreta come la conferma di quello che pensa, perché il cliente inizia a sua volta a raccontare tutto quello che vuole e che il mago ascolta con molta attenzione, no? Che poi con calma ripeterà, arricchirà di particolari anche fantasiosi e darà l'illusione a chi ascolta che sa tutto. Quindi è un gioco, diciamo, di prestigio, di captazione di informazioni soprattutto, di grande osservazione della persona, vedere quali possono essere i suoi problemi subito. Una persona con l'occhio allenato, da come sei vestito, da come ti siedi, dal tuo nervosismo, dalla tua serenità, dagli accessori che hai, capisce molto di te. Assolutamente. assolutamente sì, un po' come Sherlock Holmes, no? Ma ci sono addirittura dei maghi, ci sono stati delle persone che hanno sviluppato questa capacità di osservazione al punto che, come dei medici provetti, vedendo entrare una persona intuivano immediatamente che tipo di malattie o di disturbi potesse avere, il colore della pelle, il modo in cui camminava, il modo in cui respirava, come parlava, eccetera, e riuscivano a dare diagnosi quasi mediche, e questa cosa veniva considerata paranormale. Ci fermiamo un istante con Massimo Polidoro, a tra poco. 800 24 00 24. Melog. Il giorno successivo mi presentai a lui con un fotografo, secondo gli accordi. Era il giovane dipendente di un'agenzia fotografica abituata a servire i giornalisti. Il mio improvvisato collaboratore non sapeva nulla dell'enigmatico signore che andavamo a intervistare. Immaginarsi dunque come sgranò gli occhi quando il dottor Roll si rivolse a lui con queste domande, dopo averci introdotti nel suo studio. Lei è sposato da pochi mesi, vero? E la sua mogliettina è bruna, con occhi neri. Sì, ma come diavolo... Aspetti. Come mai si sente sempre mezzo addormentato? Come ora, ad esempio. Lei soffre di astenia. E lo sa perché? Glielo dico io. I motivi sono parecchi, ma in primo luogo c'è l'appendicite cronica di cui soffre. Non è vero, forse? Sì, ma lei come fa a sapere tutte queste cose? Mi ha fatto spiare? È vero che lei ha vinto 37.000 lire al totocalcio? Però ha perso molto di più, se tiene conto di tutte le somme che ha giocato in parecchi anni. Mi creda, non è il caso di insistere. Questo è un giornalista che è andato a intervistare Gustavo Adolfo Roll, che è uno dei più famosi uomini con poteri paranormali di questi ultimi 50 anni. È morto non molti anni fa, di lui si fidava Fellini, ma sembra che addirittura avesse fatto esperimenti davanti al Duce, era capace di bilocarsi, faceva apparire dei quadri su tele bianche, improvvisamente appariva un quadro, prima Rosi spegneva la luce, faceva grandi profezie. Pare che avesse toccato quella che è la formula che racchiude in sé il segreto dell'universo, legato a una nota musicale, a un colore, a una sensazione di calore. Insomma, ho conosciuto anch'io molte persone che mi giuravano aver visto fenomeni paranormali, Roll che passava attraverso le pareti, Roll che faceva, materializzava dal nulla degli oggetti, Dino Buzzati, Pitti Grilli, una serie di persone di ampio spettro, artisti, pensatori, poeti, anche razionali, confidavano in Roll. Roll in questo momento poi dimostra in parte che mette a punto alcune delle tecniche che ci ha appena accennato Massimo Polidoro. Massimo Polidoro, tu hai parlato di Roll, ho visto che hai avuto rubriche televisive in cui ne hai parlato. Come te lo spieghi però il fenomeno Roll? Beh, Roll è stato sicuramente una persona che è riuscita a trasformarsi in una sorta di mistico occidentale, assolutamente ammirato e amato dai suoi... Ma a Torino è un'istituzione, sono tutti convinti che sia stato veramente un grande mago, un grande illuminato, un iniziato, una serie di caratteristiche. Tu cosa sei convinto invece che fosse Roll? Ma da tutto quello che ci resta, purtroppo lui si è sempre rifiutato, e questa è la cosa principale, sempre rifiutato di dimostrare di avere... Tu avevi chiesto a lui di fare delle dimostrazioni pratiche delle sue qualità e tu le avresti verificate? Sì, esatto, perché quando il CIC è appena nato nell'89 Roll era ancora vivo e in attività, e noi più volte le abbiamo scritto chiedendogli un incontro, ma chiaramente si è sempre rifiutato, come immaginavamo, e come si è rifiutato altre volte di incontrare esperti di trucchi come Silvan e come altri, insomma, che avevano semplicemente detto: faccia vedere davanti a noi le sue meravigliose capacità, e poi se non riusciamo a trovare una spiegazione, un trucco, evidentemente c'è qualcosa da indagare. Ma chi vuole costruire un alone di leggende intorno a sé, l'ultima cosa che cerca è chiedere verifica. Esatto. Beh, devo dire che in quel caso non è che lui chiedesse soldi o lucrasse su questo, era un signore molto schivo, molto isolato, frequentava pochissime persone, sembrava che vivesse veramente nell'angoscia di questo segreto della chiave di lettura dell'universo che avesse scoperto, almeno questa era la voce che girava a Torino, che è una città già abbastanza singolare da questo punto di vista. Beh, spesso si pensa che le persone possano in qualche modo mettere in scena dei fenomeni che poi non sono veri, solamente per motivi di lucro, no? Per guadagnarci, ma per una persona che come lui era benestante, questa non è una motivazione sicuramente valida. Una persona come lui, che era un benestante, che era una persona che anche colta, insomma, no? Riuscire ad acquisire l'ammirazione di personalità come dicevamo Fellini, Buzzati, altri che lo consideravano, ma anche la stessa famiglia Agnelli sembra che fosse molto vicina, sì, esatto, sembra, no? Poi sono voci, cose che non si comprano con i soldi, no? Che un cartomante non avrà mai, e che invece una persona come Roll riusciva ad avere. Ma te non ti sembra un po' come quei film di ultima generazione in cui uno si veste da supereroe e poi comincia a crederci, diventa un supereroe, che alla fine ci credano anche loro un po', sono convinti di aver superato quel limite del razionale in cui possono spaziare nell'empirio del probabile con una certa leggerezza rispetto agli altri umani, ci credano proprio loro? È molto probabile, anche perché sono consapevoli evidentemente che quando indovinano la carta, quando la trasformano, quando fanno comparire il disegno, quelli evidentemente sono dei trucchi dove non si possono fare le cose in maniera inconsapevole, però poi vedono le persone che magari stanno meglio, che guariscono, che hanno delle reazioni in qualche modo positive, e possono finire per convincersi che effettivamente posseggono qualche dote speciale che evidentemente ha degli effetti sulle persone. Sentiamo Margherita, 800240024, continuate a segnalare la vostra esperienza con il paranormale, perché non abbiamo un pregiudizio, un preconcetto, semplicemente ci confrontiamo. Margherita, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Margherita, innanzitutto buon anno a tutti, buon anno Gianluca, io ti seguo sempre, ascolto Melo, che davvero complimenti. Ne trai del beneficio, Margherita? Sì, assolutamente sì. A beneficio fisico o solo spirituale? Entrambe le cose. Quindi per lei è praticamente qualcosa di paranormale ascoltare Melo? Sì, è paranormale e fisico, no? Fisico nel senso di della natura. Quindi delle io potrei, cose, potrei mettermi a fare il mago, aprire un mio studiolo, parlare alle persone e si sentono meglio. Ma c'è molta più magia nella realtà effettiva, no? Che, andiamo che al dunque. Chi ti ha preso allora, per il culo? Dai. Io voglio dire questo, sono una persona che sempre è stata molto razionale. Atea, insomma studio filosofia e così via. Beh, quindi mi sono, uno può essere anche credente e essere razionale lo stesso, la fede è una cosa diversa secondo me. Sì certo, è una cosa diversa, però sono sempre stata molto scettica comunque verso queste, no? Queste pratiche tipo la cartomanzia, però un'amica di famiglia è una cartomante, insomma da tanti anni, lei è una vecchia signora molto discreta anche, e si è rifiutata di leggere le carte dopo aver predetto a persone alle care, no? La morte. Esatto. Sì, tutti lo dicono, dopo aver visto una cosa che non volevo vedere, sì, ho smesso di farlo. Tutto, guarda, io me l'ho sentito 100 volte, non lo fa più perché una volta ho visto delle cose, sì, visto gente morta, dai. Allora? Però le ha lette a me, e devo dire che è entrato in dei particolari. Tipo? Così. Allora, io ero innamorata di un ragazzo che adesso è diventato tra l'altro un mio grande amico, mi ha detto, insomma, lei leggeva nelle carte che io dovevo lasciarlo stare perché lui era innamorato di un'altra ragazza. Vabbè, leggeva, e addirittura faceva dei viaggi da lui per andare da lei, e infatti dopo parlando con lui, scusa, tu avevi detto a questa alla vecchia cartomante, lei te l'ha detto, ma tu questo ragazzo lo frequenti? Tu hai detto sì, ma con me però ti ha mai messo una mano fra le gambe? No, non me l'ha mai messa. Evidentemente un'altra, e così sarà successo. Ma diciamo che no, che non mi ha fatto domande così. Ma questa era amica di tua madre, amica di tua madre? Sì, di chi? Sì. E tu ti confidavi con tua madre? Sì, però non così tanto, insomma, tengo sempre le distanze, quindi beh, un po' diciamo fa quello che ha detto tua signora madre. Non poteva sapere, io poi, insomma, non sono poi così, cerco di essere anch'io discreta, un po' riservata, soprattutto in famiglia, no? Quindi lei mi ha rivelato cose che insomma, non potevano. Ma dimmene non... una che c'era un'altra donna. Sì, ma voglio dire, come faceva a saperlo lei che questo mio no, amante o pseudo amante, no, frequentava un'altra. Ma perché statisticamente donna. Gli uomini di solito non è che se ne tengono una per volta, ne tengono sempre un piccolo ventaglietto, certo, di riserva. Ma che prendeva il treno per arrivare da lei. Ma è chiaro, perché scusa, ma perché nella sua zona di origine c'aveva già te, e l'altra se andava a prendere qualche chilometro più là, mi sembra logico. No, perché comunque quest'altra viveva anche qui, solo che lei poi aveva anche la famiglia da un'altra parte, e quindi insomma andavano a trombare fuori casa per non farsi vedere. Ma dai, ma ci vuol tanto. Sì, lo so, però ecco, devo dire che io non volevo, forse mi sono lasciata un po' grande, però ecco. Ma questo cosa ti ha cambiato della vita? Fammi capire. Mi ha cambiato, sì, perché io ho iniziato a pensare che effettivamente forse ci c'è sono qualcosa. Delle cose che non riusciamo a spiegarci, tutto qui. Massimo Polidoro, non è poi così irrazionale. Certo, no. Massimo Polidoro, il mentalista in realtà come si comporta rispetto a una situazione del genere? Il mentalista, come dicevamo, no, ascolta attentamente quello che dice una persona e osserva i segnali e anche quello che non dice una persona. Se qualcuno va dal mago, va dal cartomante... dicendo ma tu che cosa ti serve, ma forse vorrei sapere qualcosa per quel che riguarda il cuore, è evidente che non ha una situazione chi serena, sta bene, no? Non ci va, è chiaro, chi sta bene non ci va, e quindi ma è un uomo che c'è o che magari ci potrebbe essere, ma sa, potrebbe essere qualcuno che già c'è, e qui insomma poi si tratta semplicemente di avere un po' di esperienza della vita. Poi ci metti la mamma che gli avrà dato delle dritte. E poi c'è anche la mamma che, figurati, amica, allora che l'avrà osservata come un cane poliziotto alla figlia, figurati. E lo scopo della madre che parlasse con la cartomante e la disilludesse su questo amore che tutto il paese sapeva che andava con la vicina di casa a trombare al paese vicino, capito? Quindi era la Vox Populi che si è tradotta in un messaggio che ha salvato l'integrità di questa fanciulla. Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sono felice di poter partecipare a questa trasmissione. Sì. Premetto che non sono una persona che crede particolarmente a queste cose, volevo solo portare la mia in qualche modo esperienza al riguardo. Studio delle materie scientifiche e di per sé tutte le altre vengono divise come scienze esatte, non esatte e poi probabilità. In teoria l'astrologia non potrebbe essere considerata nessuna, perché per una questione di probabilità natura si ha comunque una percentuale di persone che accettano quello che viene detto. E quindi tu diciamo hai messo a punto un tuo modello matematico per cui dici, se anche dico 100 cazzate, di queste 100 ce n'è una che corrisponde comunque al percorso di vita di questa persona, quindi ci sono buone probabilità che qualcuno mi crede. Grazie, Marco ha concluso la trasmissione, saluto Massimo Polidoro, ricordo il suo libro Udinì, Mago dell'Impossibile, Torino, Edizioni Codice. Alla prossima.